piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ebbene, questa mattina vi offro un punto di vista differente rispetto alle solite trasmissioni. La fulminazione mi è arrivata soltanto un'ora fa. Guardavo le notizie, mi arrivavano le notifiche dal profilo Facebook di un amico e collega, che però vi lascerò per ora sospeso nella sua identità. Ho letto un suo reportage. Cioè, lui è stato a bersi una cosa in un pub romano, anzi nel quartiere Prati, anzi a pochi passi da casa mia, per questo mi ha colpito ancora di più, e ha assistito a una scena. Un uomo e una donna si erano incontrati dopo essersi, diciamo, conosciuti via Facebook. Ora, non è che lui fa lo spione, ma parlavano talmente forte, a voce talmente alta, e quindi erano consapevoli di rendere il mondo edotto di quella che era la loro storia, che lui, tornato a casa, facendo lo scrittore, ha pensato di mettere giù un racconto di questo idillio colto sul nascere. E io questa mattina, essendone colpito, e spero di colpire anche voi, l'ho fatto immediatamente sceneggiare dall'ottimo Stefano Sfondrini, che è la nostra voce. Lo abbiamo musicato con una musica adeguata grazie a Fabrizio Intonti, e ve lo facciamo sentire in brevi tranche. Io commenterò ogni pièce di questa storia d'amore, che trovo significativa, esemplare, paradigmatica dello stato delle cose, della relazione al momento particolarmente delicato della nostra evoluzione digitale, in qualche maniera interrotta e corroborata dall'evento del Covid, e chiedo da subito di chiamare all'800240024. Quello che vi chiedo è di prendere parte per l'uno o per l'altra delle due persone che hanno creato questa fantastica pièce che vi propongo immediatamente. Scena: locale di una metropoli italiana. Sera. Una coppia mal assortita di 35 anni. Lui alto, sportivo, abbastanza anonimo. Pantaloni alla zuava, scarpe da training e cappellino da baseball. Lei piccola, minuta, in tubino rosa con minigonna, tacchi a spillo, capelli neri stirati in giornata da parrucchiere e visino insignificante. E quando dico insignificante. Praticamente un'impiegata statale al primo impiego o una neolaureata fuori corso a giurisprudenza, vestita da escort. Qualcosa di terribile. Naturalmente l'elaborazione poetica di chi ha seguito questa storia si prende tutte le licenze possibili. Non vi diamo indicazione precisa dove è avvenuto esattamente, il fatto né quando. Diciamo che accade in una zona di un quartiere mediamente ben frequentato di Roma. Il periodo è questo estivo, si incontrano un uomo e una donna. Crudele nei particolari, ma sono significativi di alcune tipologie tipiche degli avventori della notte romana. Lui fa lo sportivo, palestrato, con i pinocchietti, quegli orribili pantaloni sotto il ginocchio che vanno tanto nelle notti romane, scarpe sportive, cappellino in testa per nascondere la calvizie incipiente, per darsi un'aria sportiva. Insomma, un bell'imbusto trentenne in cerca, che probabilmente vive con la famiglia ancora, di avventure notturne, e ha trainato con sé questa ragazza avvenente. Si sono conosciuti via Facebook e lei si presenta al massimo delle sue cartucce. Lui dice vestita da escort, ma capisco cosa significa. Quei vestiti tubini attillati che una donna ha pieno diritto a mettersi delle notti romane, che a volte un po' contrastano con il livello del locale. Conosco questo locale, è un locale dove si fa musica, si beve, si mangia, ma va gente normalmente vestita. Andarci in tacchi a spillo, minigonna e inguinale, pieno diritto di vestirsi, e comunque essere fuori posto. Non si capisce bene perché, ma si capirà perché andando avanti. Non ti chiedi perché io abbia accettato di venire a cena con te stasera? Veramente no. Ma mi hai invitata così solo per avere visto le mie foto su Facebook? Sì, ma io intuisco una persona anche in questo modo. E mi hai trovato bella. Che cos'è per te la bellezza? Beh, è un po' tutto, la persona, non è solo un fatto fisico. Però quando sei sceso dalla tua auto mi hai guardato e hai sorriso, come se ti stupissi del fatto che sono così bella. Sì, ma anche perché mi è venuto così. E quando mi hai visto così bella ti è venuto voglia di scoparmi subito? No, che c'entra? E approfondiamo questa conoscenza. Naturalmente il nostro ignaro avventore, amico e collega non poteva fare a meno di ascoltare un dialogo che si presentava con premesse così interessanti. Lei va d'attacco, lui sellerone bimbo minchia sicuro di fare la seratina con la sua nuova conquista, la prende larga, ma com'è giusto che un uomo la prenda larga? Scusate, un uomo vede per la prima volta una donna, si vedono per la prima volta insieme in un locale, è chiaro che deve comunque tastare il polso, assaggiare, parlare del più e del meno. Questo sarebbe un canone rispettabile. Se avesse fatto qualcosa di diverso sarebbe stato considerato un compulsivo, un maschio che aggredisce, un primitivo. Invece lei gioca d'attacco, gli dice bellamente, dice: scusa, ma non ti viene voglia di scoparmi, visto che mi hai aggredito, diciamo, con lo sguardo, mi hai subito visto per come sono bella, guarda che bella cosa che sono io e come sono procace, quindi perché non mi dici chiaramente quello che c'hai già in testa? Si vede dal tuo sguardo, dalla tua bavetta che mi vuoi scopare, perché ti limiti a prenderla larga, a parlare del più del meno, del tempo, della psicologia, dell'interiorità? E lui come reagisce? Su, raccontati un poco. Io esco poco con i maschi, preferisco le donne. Le donne sono tutta un'altra cosa, sono fantastiche. Ma poi se esco con un maschio è un caso raro. Non ho molto tempo da perdere, devo fare l'esame per la magistratura. Mi sono detta che prima o poi devo fare le cose che si devono fare. Non ho molto tempo da perdere e qualche maschio, se vale la pena, si può anche provare. Ma i maschi devono avere questa sensibilità, dobbiamo accordarci sulla bellezza, ad esempio. Che cos'è la bellezza per te? Per me la bellezza è quando uno dice quello che pensa. Tu hai pensato di scoparmi. E allora perché non l'hai detto subito? Signori uomini, mettetevi nei panni di questo poveretto che probabilmente in questo momento vorrà scomparire dentro i suoi pinocchietti e ciò che rimane ancora vitale della sua tartassata virilità da questo attacco preciso probabilmente sarà in modalità lumachina, perché si trova spiazzato, probabilmente avrebbe fatto il gradasso da lì a un po', al terzo Negroni avrebbe provato a dire che buon profumo hai e quanto sei bella, che bel vestito che hai, queste baggianate che dicono di solito quelli che rimediano le amicizie, le conoscenze, gli amori nei social e poi li portano nei localini romani e si presentano coi pinocchietti, le scarpe da ginnastica e il cappellino in testa, anche a tavola. Lei naturalmente dichiara la sua condizione di essere umano sessualmente fluido. A lei piacciono le donne si sa sono meglio per le donne, sono più profonde, capiscono meglio, gli uomini ormai sono degenerati, però ogni tanto va anche con qualche maschio, ma com'è giusto che sia, potrà fare quello che vuole, però i maschi li vuole espliciti come sono espliciti gli incontri che avvengono nella cerchia delle persone che non si pongono problemi di sentimento, problemi di relazione duratura, ma semplicemente di passare momenti piacevoli assieme dal punto di vista carnale. Insomma, quello che probabilmente lui nei suoi sogni di bambino, leggendo Iacula, si è sempre immaginato e sognato, una donna procace, ci subito facciamolo. Eppure rimane spiazzato. Io esco con te, accetto un invito a cena, e poi siamo qui in birreria che ancora dobbiamo chiarire i termini della faccenda. E tu non sei chiaro. Capisci che è difficile credere ai maschi che fanno così? Perché la sensualità è un fatto mentale, fa parte della bellezza e quella o ce l'hai o non ce l'hai. Infatti lei non ce l'ha. E io misuro la bellezza in altro modo. Poi posso anche scopare o no. Tu pensavi di scoparmi stasera? Io... Lo vedi che non sei capace di dire le cose in modo diretto? Eppure sono venuta a cena con te. Cioè tu fai tutto questo corteggiamento su Facebook, mi inviti a cena e non capisci nemmeno chi hai davanti? Almeno hai capito perché sono venuta con la mia macchina. Se c'è anche solo una minima cosa che non mi piace, io mi alzo e me ne vado. La serata può anche finire così e tanti saluti. Allora potevi dirlo dall'inizio. Sarebbe stato più sincero dire: scusami, forse non è il caso che usciamo stasera. Magari vediamo più avanti. Ecco, se avessi detto questo io lo apprezzerei molto e ti scoperei. Ripeto la domanda, vorrei che vi immedesimaste nell'uno nell'altro di questi due protagonisti. La storia è molto lineare, è molto in linea con i tempi, non è un'eccezione. Molta gente si incontra dopo essersi assaporati a distanza sui social, e l'incontro normalmente è un incontro che ha subito un esito di risoluzione carnale, però probabilmente hanno sbagliato il veicolo. Si fossero conosciuti via Tinder, non c'era tempo da perdere, basta solo decidere quando si va, dove si va, come si fa, quanto tempo si ha a disposizione. Lei è una donna molto indipendente, viene con la sua macchina perché dice: se lui non mi piace prendo sgombro e me ne vado, non è che sono dipendente da uno che mi deve riaccompagnare a casa. Naturalmente lei voleva da questo incontro qualcosa di esplicito, avrebbe preferito che lui dicesse: quanto sei bella, mi piace un sacco, già sono in modalità treppiede, quindi beviamoci alla svelta sta birretta e andiamo a consumare, ammesso che lui abbia un posto dove andare a consumare o si fosse premunito del fatto che questo incontro andava a finire sempre a chiacchiere. Ma comunque io volevo parlare con te. E stiamo parlando, no? Mi vuoi scopare? Guarda che ci metto poco, posso dirti che dopo andiamo a scopare. Ma siamo su due dimensioni diverse, capisci? A me interessa la psicologia di una persona, nemmeno la fisicità. Poi un maschio deve avere una sensibilità parecchio sviluppata, altrimenti non si può relazionare con me. Lo capisci questo? Sì, certo. Oh, ecco. Ci voleva tanto per dirlo? Lo vedi che fai fatica a dire quello che pensi? Te lo sto dicendo. Vabbè, spostiamoci di qui. Lui fa per alzarsi e andare a pagare. No, scusa, perché paghi tu? L'hai stabilito tu? Cioè ti sei fatto tutto un film per cui mi inviti a cena e poi decidi tutto tu? No, guarda, pago io. Al massimo facciamo a metà. Ok, dai, facciamo a metà. No, pago io. Alla fine paga lui. Se ne vanno. Li vedo solo di spalle. Lei cammina altera e appagata. Lui a testa bassa, sfiancato, lasciando dietro di sé i resti del massacro. Quello del pagamento è il colpo finale, il set, quello che più volte abbiamo analizzato anche in trasmissioni precedenti. Si va al ristorante, si vede all'inizio che la cosa non va, cosa fa? Ci si alza e ci se ne va, oppure si sopporta ancora una serata, oppure si dice: speriamo che finisca presto. Lei non ha sopportato, l'ha trovato davanti un coglione, probabilmente dal suo punto di vista, dalla sua sensibilità. Gli piaceva magari fisicamente, ha detto: beh, stasera magari cambiamo menù e andiamo con un uomo. Però lo devo sottomettere, trattar male, ridurlo uno straccio, togliergli ogni volontà. E lui non ha saputo stare al gioco, non ha saputo reagire, non ha avuto la forza, ma lo posso capire, gli uomini in questi cimenti devono fare i conti col loro infedele gemello siamese, e in quel momento probabilmente era atterrito dal fatto di trovare una donna così aggressiva. Come la vedete voi? Come la immaginate l'esito di questa storia? Intanto saluto Bruno Ballardini. Bruno, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, Bruno Ballardini è il misterioso autore di questa storia, che è la storia che realmente ha vissuta. Ricordo che è uno scrittore, un saggista, tra i suoi libri Lo Zen e l'arte di aprire una porta aperta, Leader come Papa Francesco, Il marketing dell'Apocalisse, l'Isis. L'abbiamo chiamato più volte a definire quello che era il linguaggio dei terroristi dell'Isis e il marketing della Chiesa. Solo una battuta, Bruno, poi ci risentiamo dopo la pausa. Confermi che questa storia, al di là della tua traduzione letteraria, esattamente avvenuta in questi termini? Ma assolutamente sì. Il discorso è che non c'è solo questo. Io mi sono ricordato una buona parte, diciamo tre quarti. E comunque, giustamente dicevi, mi sono occupato di terrorismo. Anche ieri sera mi sono occupato in qualche modo di terrorismo. La terrorista la vedi nella figura della signorina che sta studiando per fare il magistrato, quindi avrà, diciamo, le unghie ben acuminate nella sua futura professione, e il ragazzo lo vedevi, diciamo, nella posizione di vittima. Noi ci fermiamo un istante, lascio però questa provocazione al pubblico, può chiamare da adesso all'800240024. Voi cosa avreste fatto se fosse stati maschi? Voi donne trovate questo sia un comportamento che in qualche maniera può riflettere una corretta maniera di gestire un primo appuntamento? Non ho nessun pregiudizio. A me, devo dire, tutto sommato, lui mi sembra un po' gnocco e non ha saputo prendere l'occasione al volo. Se veramente voleva con questa donna avere un congiungimento carnale, al momento gli hai detto: mi vuoi scopare? Dice: sì, vabbè, ok, c'hai ragione, scusa, non te l'ho detto prima per rispetto, e magari gli avrebbe detto no. Fermiamoci un istante, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta blog. 800240024, ringrazio brevemente, velocemente Valeria Bernardi, Anita Panizza da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma. Riassumo velocemente un nostro amico che poi è Bruno Ballardini, lo scrittore che spesso è stato nostro ospite, in una notte di inizio estate in un locale romano coglie una coppia che parla ad alta voce, sono al primo incontro. Lei è molto esplicita, dice a lui: perché non mi dici subito che vuoi il mio corpo? Lui rimane spiazzato, lei lo uccide emotivamente e poi escono da questo locale. Chiediamo agli ascoltatori qual è il punto di vista dell'uomo e della donna nei confronti di questa storia. Mi scrive Sabrina dal sito Melog ha parlato, che è una sessuologa: mi sembra che non torni, che questa donna esca con un uomo un po' gnocco e con dei pinocchietti, forse una serial killer mentale, li sceglie così e gli dà delle mazzate emotive. Chiamate all'800240024, mentre Ballardini tra poco ci darà altre informazioni che non sono uscite in questo racconto, noto che non stanno chiamando donne, chiamano soltanto maschi. Roberto, provincia da Milano, veloce. Buongiorno. Sì, ti ascolto. Io quando ho sentito pinocchietto, cappello sportivo, ho subito pensato: uno che si presenta così il primo appuntamento non merita, cioè merita un trattamento del genere. Ma tu sei milanese, a Roma diciamo che è un po' la regola, capito? A Milano non lo farebbero probabilmente. È il tipico romano trentenne che vuol fare un po' il provolone estivo, capito? Poi ci sono altre versioni, ma lui fa parte di una tipologia precisa. Quindi il romano trentenne va in giro con i pinocchietti, il cappellino e dà appuntamenti a ragazze con tubino e scarpa col tacco? Esattamente, guarda, se vai per il centro, per i posti del centro, così sono tutti in speranza di incontri. Lei è molto esplicita, dice subito: scusa, ma che ci vediamo a fare? A sentire che mi racconti la storia della tua vita. Lo fa probabilmente per maltrattarlo, perché avrebbe avuto lo stesso risultato di andarci a letto, standolo a sentire un po', facendo un po' di storie, e poi dice: beh, andiamo a farci una passeggiata. L'ha voluto mortificare e umiliare. Però dal tuo punto di vista, come uomo, cosa avresti fatto? Come avresti reagito? Beh, io intanto non mi sarei presentato coi pinocchietti, poi ho qualche anno in più e quindi non ho la presunzione di saper gestire queste cose, ma in questo caso, di fronte a questa manifestazione così esplicita, o si passa al dunque o si abbandona il campo con un così. Lo trovo giustissimo, Roberto, hai detto la cosa giusta. A quel punto o stai immediatamente, hai capito che lei vuole dare le carte, accetti questo tipo di gioco o passi al dunque, se no, se proprio la cosa ti è pesante, ti trovi infastidito da una cosa, dici: beh, ciao cara, trovatene un altro, arrivederci. Oh, finalmente, Laura da Rilivorno. Laura, buongiorno. Ciao, buongiorno. È chiaro che il mio modo di pensare, per via della mia età, è completamente diverso da quello di un ragazzo di 35 anni, però dalla parte di lui avrei spiazzato lei, nel senso: no, non fai per me, non sei il mio tipo, io non ho voglia di votare il sacco con te, assolutamente, ciao cara. Beh, il termine votare il sacco è fantastico, tu dici che non sei esplicita, è un termine bellissimo. Un uomo che dice alla donna: non vuoto il sacco con te, ha già detto tutto. Sei veramente geniale a questo punto di vista. Certo, se lui voleva in qualche maniera mortificarli, dice: dove vai con sto tubino comprato alla Rinascente e con sti tacchi a spillo di scarpe finte di marca? Ma chi ti credi d'essere? Io ero uscito perché mi andava di uscire con una persona. Se vuoi provare l'effetto maschio, vai nei bassi fondi e troverai di meglio. Brava, Laura. Carlo da Torino. Ciao Nicoletti. Ascolta, io la vedo così, io purtroppo ho esperienze con tipi di ragazze del genere, perché comunque, vista l'età, mi è capitato di avere l'età. Qual è la tua età? Ne ho 29, quindi un po'. Quindi diciamo, le trentenni possono essere anche di questa tipologia. Le trentenni, anche le ragazze più giovani, quelle che si approcciano su internet, che vivono i social, sono spesso così. Io posso dirti com'è andata prima dell'incontro. Sicuramente lui ci avrà provato con lei, lei avrà visto il suo profilo Facebook, avrà pensato che era un inetto, sicuramente, e sarà già che lui fosse un coglione, lei avrà capito subito, se no non andava in maniera così aggressiva, capito? Esatto, lei è andata così, giusto perché secondo me questa ragazza è un po' frustrata dalla vita e quindi per, diciamo, sentirsi meglio. Stando il concorso per la magistratura, non mi sembra, studia, è bella, si può permettere di dire a un uomo... Sì, perché vabbè, ma quale donna, Nicoletti, non ha la fila di uomini dietro? Tutte, bene o male, se vuole, la scopata, certo, sì, riescono a farsela. Sì. Per l'uomo invece, secondo me, quell'uomo lì non era così. Ed è il motivo per cui non si è alzato e non se n'è andato subito. Una donna di fronte ad un uomo che gli dice dai andiamo a scopare, si alza e se ne va. E lui fa la figura. Danno schiaffo, lo denuncia, sì, certo. Esatto. Al contrario, l'uomo, soprattutto uno magari poveretto così, mortificato, che è andato lì con le migliori intenzioni, è stato lì fermo, zitto, e se si alzava e se ne andava faceva sempre la figura del coglione lui. Sì, in effetti niente. Sì, allontanarsi col pinocchietto lasciandola così, poi magari in quel locale lui conosceva, se l'ha portata lì, era un posto dove andava spesso, magari lui secondo me voleva una bella ragazza, iniziare una storia, magari andarci l'estate, cioè sai quest'estate andiamo insieme a Ponza, andiamo a Fregene a fare il bagno, partiva molto più lento e lei ha accelerato tutto. Bruno Ballardini, velocemente, hai altri elementi ad aggiungere per dare modo, stanno telefonando decine di persone, la gente appassionata, per darci modo di cogliere meglio queste due personalità che tu hai solo accennato? Ma io mi sono fatto un'impressione comunque molto vicina a quella dell'ultimo ascoltatore, e cioè che lei era già programmata per questo, lei è andata via dalla scena del delitto soddisfatta, appagata, come se avesse avuto un incontro di sesso. Cioè, per lei l'attività programmata di quella sera era distruggere un maschio. È molto semplice. Quindi, diciamo, lei aveva, ostentando anche la sua scelta, diciamo, sentimentale, sessuale, ogni tanto usciva e cioè, stermina un maschio perché è giusto che non ci siano più. Un atteggiamento, diciamo, da femministe radicali degli anni 70, quelle che dicevano che i maschi andavano tutti castrati. Esatto, ed era vestita per l'occorrenza, cioè si capiva dal fatto che non era molto naturale in quel tubino, è come se fosse messa in tiro proprio per la battaglia. E quindi, ma non può essere, te la faccio più colorita, che lei era lì anche con le sue amiche, dicendo una di noi si veste da zoccola, chiama un uomo coglione, gli fa questa storia così ci facendo risate alle spalle di questo, ci stava? No, c'erano i tavolini distanziati, c'erano poche altre persone. Io ho visto che la serata si è conclusa quando si sono alzati. Lei aveva ottenuto il suo risultato. Quindi lei se ne andava a casa sua e lui a casa sua, fine. Sì, è finita lì, sicuramente. Pensa che serata di merda per lui. Cioè, proprio... E soprattutto, pensa se mai ci sente adesso. Non abbiamo dato nessun elemento di identificazione, quindi è al sicuro la sua privatezza. Però pensa, poverino, se in questo momento sente che è diventato... diciamo spunto di una riflessione a livello nazionale. Sentiamo Vincenzo da Modena. Buongiorno Gianluca, scusami. Sì. Ascolta, non sono tanto d'accordo con i tuoi ospiti perché nessuno ti ha risposto sinceramente, cioè nessuno si è messo nei panni di quel ragazzo dell'età di quel ragazzo. Ognuno ha parlato adesso della situazione, degli anni che ha. Io adesso ho 49 anni. In tutta sincerità adesco qualcheduna sui social, sinceramente già lì mi rendo conto con chi ha a che fare, come l'avuto è stato per la ragazza, questo è ingenuamente è stato proprio un provolone, cioè ragazzo, ha fatto il passo più lungo della gamba, ecco, non poteva gestire una donna del genere in un rapporto, diciamo, anni, di primo incontro. Bravo, io a 35 anni non avrei mai potuto gestire una donna del genere, se ci vuole un uomo con dell'esperienza, ci vuole non con dell'esperienza sessuale, ma con dell'esperienza psicologica. Sì, ci vuole un marpione navigato che gli scivola qualunque cosa, di quelli che conoscevo io nella mia scapestrata fanciullezza di provincia, dice l'importante è lo scopo, che hanno capaci di mettersi a fare il tappetino pur di ottenere lo scopo. Una volta ottenuto lo scopo scomparivano. È una vecchia scuola però quella. Simona, provincia di Bologna. Sì, pronto, ciao. No, io volevo dire questo, io... penso che delle donne così adesso ce ne siano abbastanza, però secondo me rendono un pessimo servizio all'incontro uomo-donna, perché più che un incontro diventa uno scontro continuamente. Quindi questo beh, qua... se uno cerca quello, è venuto fuori l'idea che lei, mi sembra che gli elementi giocano sul fatto che lei cercava questo tipo di esperienza, trovare un maschio un po' tontolone da mortificare, da sbattergli in faccia la sua, il suo disprezzo, e ottenuto quello si è divertita, è una sorta di sadismo narcisista, invece che menarlo e frustarlo l'ha mortificato, che poi se n'è andato. Purtroppo, secondo me, questa cosa un po' si sta un po' diffondendo e quindi praticamente alla fine risulta vincente l'uomo più stronzo, alla fine, perché comunque l'uomo che ha un attimo di... così di modo di fare, che in realtà le donne hanno bisogno di questo, cioè possono, sono le donne più frustrate, quelle secondo me che devono imporsi in questo però modo. Scusami, nei tuoi ricordi sentimentali, quelli che rimangono indelebilmente attaccati alla tua tenera anima sono gli stronzi che hai conosciuto, non i bravi ragazzi, diciamoci la verità. Ma bravo ragazzo non vuol dire per forza banale, uno può essere una persona molto interessante e magari con cui stai bene così, però non uno stronzo. Sì, ma mister Pinocchietto interessante non lo era a priori, lei lo sapeva, perché dal profilo Facebook avrà visto lui con la birra in mano, lui con la cannuccia che sulla spiaggia di Fregene e lui con gli occhiali da sole, quindi lei sapeva già cosa andava incontro, non è che ha cercato un bersaglio facile. Ci fermiamo ancora un istante, tra poco. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel. Ford Transit Hybrid. Meno consumi, più attenzione per l'ambiente, stessa capacità di carico. Tuo a 230 euro al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 454. Veicoli commerciali Ford. Da sempre al fianco di chi lavora. Melog 800 24 00 24, siamo sommersi dalle telefonate. Bruno Ballardini, hai scritto in 20 righe la sceneggiatura di una storia fantastica, te ne rendi conto? Io purtroppo esco per rilassarmi un attimo, mi capitano cose di questo genere, perché io scrivo ormai H24 per consegnare delle cose in ritardo e mio malgrado mi trovo a dover trascrivere, perché ci sono delle cose interessanti anche sul piano strategico, perché mi sto occupando di strategia ultimamente. C'è da fare una considerazione sul piano dei media, mediatica, cioè io credo, per esempio, che il social... in mano a bamboccioni da una parte, bimbi minchia come hai detto anche tu, le acquichete, di cui noi ignoriamo totalmente la potenza distruttiva, crei un mix... Beh, ignoriamo, Bruno, ne abbiamo conosciute nella vita attraverso altre modalità, figurati. Diciamo, stavo glissando sull'argomento. Rischia di diventare un'arma di distruzione di massa, questo è poco ma sicuro. Senti, mi dici una cosa, mi interessa, proprio da un punto di vista tecnico e pratico. Queste due persone erano consapevoli di realizzare una sorta di teatro a braccio in un locale? Perché il locale lo conosco, un locale non grandissimo, è logico che qualcuno li ascoltasse. Tu eri l'unico che seguiva questa storia? Eravamo ben distanziati, io ero l'unico vicino. Io credo che la gente sia ormai abituata, è così autoreferenziale che parla a voce alta in un modo maleducato e non si accorge neanche di essere sentita da altri, e forse non gliene frega nemmeno. Ecco, questa è la storia. Beh, in questo caso hanno avuto la loro gloria, la loro storia non storia è diventata epica. Chiara da Verona. Chiara. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Io ho 29 anni e ho ascoltato quello che avete raccontato. Mi sono fatta un attimo un pensiero, penso che ci sono molte donne, ragazze, che oggigiorno attraverso i social, anche attraverso le cose, le riproduzioni cinematografiche ad esempio di Netflix, provino una sorta di gusto nel, tra virgolette, far pagare ad uno sconosciuto. Esatto. Qualche situazione remota. Quindi lei era stata, diciamo, sedotta e maltrattata da un uomo anni prima, ha scelto di frequentare soltanto donne perché sono più tenere, più carine, poi sì, nella versione lesbo chic teorica, poi in realtà i rapporti fra persone dello stesso genere hanno le stesse dinamiche, comunque dei rapporti eterosessuali possono essere vessatori, cattivi, crudeli, però in ogni caso è farla pagare agli uomini, quindi ogni tanto s'acchitta sapendo di colpire... Io penso che la protagonista, parliamo di due figure da teatro, non sono figure reali. Mi viene da pensare che questa persona abbia agito così, non mi viene da pensare che sia così, tra virgolette, stupida, bassa, nel dire una cosa del genere a un uomo. No, no, perché... è un gioco lucido. No, no, questo è un convinto, anche perché una persona semplice, poco elaborata, non la mette così, no, così, esatto. Capito? Aspetta un attimo, lo dice, o anche una donna molto, molto emancipata, ad altri strumenti, dice, esatto. Questa è proprio una, è uno schiaffo in faccia. Lucia da Pisa. Pronto? Lucia, sì, l'ascolto. Dunque, io ho ascoltato e mi sono resa conto che questa, c'è sono due alternative. O deve fare pace col cervello, perché se esci con l'idea di farti uno, quella non è la maniera. Nel senso, ma sei convinta che il suo scopo era quello? Secondo me no. Era l'ultima delle sue idee. Appunto mi è venuto il sano dubbio, perché non è assolutamente possibile che... Una persona che vuole scopare sa benissimo che questo equivale a un effetto deterrente. Difficile che un uomo di fronte a una cosa del genere poi reagisca in maniera... A me interessa la psicologia. Beh, vuoi scopare? Beh, insomma, sembra la trama di un film porno. No, beh, il film porno magari... No. È diverso, no? Bruno, il film porno è diverso. No, i giovani, scusate, dai 20 anni in poi, sì. Parlano così, era normale questo. Diciamo, ma lui la stava facendo lunga, questa cosa, dopo quanto tempo è avvenuta la domanda? Cioè lui di cosa parlava? Della sua vita, della mamma, del film che ha visto, di quanto è bello il tramonto? Di cosa parlava lui quando lei l'ha interrotto per dirgli ma scusa, ma vuoi scopare o no? Assolutamente nulla, lui ha fatto l'errore fatale, non sapendo probabilmente come gestire la situazione, di assecondarla, e lei che era una terribilmente autoreferenziale ha parlato soltanto di se stessa, cioè del tipo adesso basta parlare di te, parliamo di me, parliamo un po' di te, che cosa pensi di me? Cioè era soltanto su se stessa. Beh, lui era zerbinato, pensava che l'atteggiamento zerbinante fosse pagante, capito? Era classicamente zerbinato, penso. Era paralizzato anche, cioè... sapeva proprio come gestire. Forse però, non se l'aspettava così aggressive, magari l'aveva vista diversamente, perché probabilmente una persona che dà un concorso in magistratura non si mette in tacchi a spillo su Facebook. Su Facebook ha messo foto dei cagnolini, dei gattini, dei nipotini, e lì è stata la sorpresa. Sì, sicuramente è stato spiazzato dal primo momento, e poi voglio dire, era tutto fuori misura, assolutamente irreale. Beh, era fantastico, però, scusa, è come entrare in uno Stargate che ti porta improvvisamente in un universo distopico, capito? Improvvisamente hai visto quello che non dovrebbe mai succedere quando incontri una persona per la prima volta. Sì, è stato un manuale di 2D picche nello stile di Elio e le storie tese. Ti ringrazio, Bruno Ballardini. Purtroppo la sigla mi dice che abbiamo finito. Ho decine di persone che vorrebbero dirla loro. Ti consiglio, parallelamente alle tue produzioni serie impegnate, di tentare anche la strada di raccontare le evoluzioni dei rapporti fra uomini e donne attraverso le tue osservazioni silenziose. Ciao Bruno, ciao a tutti, grazie, alla prossima.